Ma quello che è successo questa mattina a Melfi è un fatto gravissimo. È una storia da anni 50 o, se vogliamo, da moderno Sud America. Si sono manganellati i lavoratori in sciopero, non con lo scopo di garantire la cosiddetta libertà del lavoro, ma unicamente con quello di rompere uno sciopero che ha la grande solidarietà della stragrande maggioranza dei lavoratori dello stabilimento di Melfi. Questa è una scelta gravissima ed è una scelta di servilismo delle istituzioni verso la Fiat, una Fiat chiusa e arrogante che non ha capito che non può più andare avanti a governare la fabbrica come l'ha fatto fino adesso. A Melfi ci sono le peggiori condizioni dei lavoratori dell'auto d'Europa, con turni durissimi, salari bassi e c'è un sistema autoritario di governo della fabbrica che i lavoratori giustamente giudicano insopportabili. 9.000 provvedimenti disciplinari in 3 anni su 5.000 dipendenti. Ecco, a tutto questo i lavoratori hanno detto basta. Invece che reagire con la disponibilità al dialogo e alla trattativa, la Fiat ha reagito con la prepotenza, l'arroganza, la brutalità chiedendo l'intervento della polizia. Il governo, invece che a fare opera di mediazione, ha cavalcato la tigre dell'arroganza dell'azienda. Tutto questo ha portato all'attacco, ma noi non abbiamo nessuna intenzione di piegarci, stiamo difendendo i diritti costituzionali dei lavoratori e quindi andremo avanti. Continua lo sciopero e la mobilitazione dei lavoratori di Melfi. Tutti i metalmeccanici li sosterranno. Il 28 aprile a Roma, a Roma e tutta Italia si manifestano i metalmeccanici, manifesteranno in tutte le province italiane, ci sono 4 ore di sciopero con i quali i metalmeccanici manifesteranno il loro sostegno a questa lotta. Noi andiamo avanti e chiediamo a tutti di intervenire per fermare il governo e per fermare la Fiat. Noi chiediamo un tavolo vero con la presenza dei rappresentanti dei lavoratori di Melfi, dove si apre una discussione vera sul futuro di questa fabbrica e sulle condizioni di lavoro. Se si apre una trattativa vera e se la Fiat ritira le sue minacce, le sue pregiudiziali, le cose possono avere un'evoluzione positiva, altrimenti la Fiat e il governo si assumono la responsabilità di tutto l'aggravamento del clima.